allora, detto fatto, insomma, siamo al telefono con una compagna della valle che sta in valle, dove insomma il concentramento per il corteo di oggi immagino già sia pieno, no? Sì, sì, sì. Ciao a tutti e tutte, siamo a Giaglione, c'è un bel po' di gente, siamo ancora qui, non siamo ancora partiti, ma sì, sì, c'è già tanta tanta gente, ancora altro sta arrivando. Allora, io prima di chiederti un po', vabbè, le parole d'ordine del corteo di oggi, che non sono sicuramente una novità, ma che hanno bisogno di essere poi riaffermate con forza, visto anche quello che succede non solo lì sul territorio, ma anche ai compagni e alle compagne che subiscono la repressione dei Notav, ti volevo intanto chiedere anche della passeggiata notturna di ieri, insomma, so che queste sono giornate, insomma, belle, piene, movimentate, anche di grosso supporto, di grossa solidarietà e di grossa presenza sul territorio. Allora, se ti andava un po' di farci così un riassunto, già so che c'è stata ieri una passeggiata notturna un po' di maretta, insomma, se ci vuoi raccontare. Sì, beh, allora, innanzitutto parto da quello che da raccontarvi quello che hanno detto qua i giornali locali che hanno scritto che c'è stata guerriglia e tutto, e che la manifestazione di oggi è fatta per, aspetta che cerco la parola esatta, che hanno detto per rinnegare la nottata di ieri. Questo innanzitutto è il punto di partenza, per cui da smentire subito, perché non è assolutamente la parola d'ordine d'oggi, nessuno, ma si sogna neanche lontanamente di pensare una cosa così. Quella che c'è stata ieri, ecco, non la chiamerei guerriglia assolutamente, è stato resistenza. Sì, è stata come quello che è stato annunciato, una passeggiata notturna di tante tante persone che sono andate ancora una volta fin di al cantiere, che sono, come diciamo tante volte, andate, tornate insieme tutti quanti, fatto vedere che la valle resiste, non ha paura di farsi vedere lì ed è sempre presente, ecco, niente di più. Siamo mediamente contenti come andata, ci sono tante cose che si possono far meglio, quello sempre, però sì, siamo contenti. E di oggi, ecco, queste cose qui che non passi per la testa a nessuno, di rinnegare quello che c'è stato ieri notte. Le parole d'ordine sono di nuovo le stesse, di esserci sempre, di essere presenti qua in Clarea, dove stiamo andando oggi, ma anche ovunque dove ci sono tutti i nodi dell'alta velocità, che non sono solo il cantiere della Maddalena, e poi di essere vicini e uniti con tutte le lotte di resistenza sui territori, e come accennato l'altro compagno all'inizio, è assolutamente fortissima sempre la solidarietà con gli arrestati, visto che anche ci è arrivata anche la notizia che sono stati confermati anche gli arresti degli ultimi tre ragazzi di Milano, che quindi restano in carcere. Solidarietà nei loro confronti è proprio grande, enorme qua dalla valle, a 360 gradi, tra l'altro, no? Perché so che appunto anche su questo poi negli anni capire che quello che accade a dei resistenti poi è un colpo di tutto il movimento, no? Questo credo anche sia stato una cosa bellissima negli anni. Davanti a dei compagni in galera non ci sono dubbi nella solidarietà, no? Sì, sì, esattamente così. Le parole che ha usato proprio la valle, ma da subito dopo gli arresti, nel senso, nelle conferenze stampa, ma anche negli scritti nero su bianco, sono state proprio: sono nostri figli, sono figli nostri, e siamo orgogliosi, a prescindere che siano loro, no, di difendere il gesto, proprio quello di cui sono accusati, quindi una roba molto profonda, ecco. Va bene. Senti, io so che tra l'altro oggi c'è stata una chiamata nazionale, quindi insomma immagino sia avvenuta parecchia gente, dividendo il cuore, insomma, un po' per i cortei della Palestina e i cortei della Valsusa, ma credo che la resistenza sul territorio della propria terra, rivendicare un'appartenenza a un territorio, vi leghi. Io lo so che oggi il corteo della Valle sarà col cuore a chi rivendica la sua lotta in Palestina. Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Questo è stato parecchio intrecciato in questi giorni, anche le notizie che ci arrivavano da là, chiaramente hanno fatto, insomma, muovere tante cose anche qui. Anche qui c'è stato un presidio venerdì a Bussoleno, purtroppo sotto un diluvio universale, quindi non troppa gente, ma più per quel motivo lì, però tanta gente oggi andava all'altro corteo. Le due lotte sono sicuramente intrecciate assolutamente col cuore, e tentano di esserlo anche nelle pratiche, con il mutuo soccorso, con insomma, tutto quello che può aiutare le lotte a intrecciarsi. Va bene, senti, io ti ringrazio tantissimo, insomma, questa era solo la prima, immagino che voi, insomma, piano piano comincerete a partire, quindi noi siamo qua anche, insomma, per richiamarvi più tardi, sapere come procede, insomma, quindi casomai ci riaggiorniamo tra un pochino, va bene? Va bene. Grazie mille. Grazie. E buon corteo. Grazie a voi. Grazie. Ciao. A voi. Ciao.